strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Quella causata dal coronavirus è una crisi senza precedenti storici per l'automotive e questa è la posizione certamente condivisa dai più dell'OICA, l'Associazione Internazionale dei Costruttori Automobilistici. Una crisi iniziata già a gennaio per la carenza di componentistiche in arrivo dalla Cina che però, nonostante gli attuali stop alla filiera, viene affrontata in maniera fattiva dai protagonisti del mondo dell'auto, pronti a una ripartenza. Secondo il presidente dell'OICA, Fu Binfeng, l'industria dell'auto affronterà un 2020 difficile, ma mostrerà ancora una volta la sua forza e la sua resilienza. E continuiamo ad occuparci di associazioni dei costruttori perché è netto il no di ACEA, l'Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei, all'ipotesi di mescolare il carburante per l'aviazione con il diesel per il trasporto su strada. Un'ipotesi avanzata per esaurire le scorte di carburante per gli aerei i cui voli sono nettamente diminuiti a causa dell'emergenza in corso. Il carburante per l'aviazione, fanno sapere da ACEA, ha un contenuto di zolfo più elevato rispetto al diesel stradale, per cui un uso improprio è da evitare, visti i possibili effetti negativi sui motori dell'auto. Renault Italia si unisce alla lotta contro il Covid-19. La società infatti ha messo a disposizione della Croce Rossa alcuni veicoli Renault e Dacia per tutta la durata dell'emergenza in modo da facilitare gli spostamenti degli operatori sanitari. Nel frattempo le concessionarie del brand francese pensano ad altre iniziative solidali come il prestito di vetture ai supermercati per effettuare consegne a domicilio a favore delle persone in difficoltà. BMW ha deciso di prolungare l'arresto della produzione nei propri impianti in Europa e America settentrionale fino al 30 aprile prossimo. L'azienda tedesca prevede infatti, causa coronavirus ovviamente, un ulteriore calo della domanda nei mercati di tutto il mondo e poiché i concessionari resteranno chiusi, come tra l'altro ascolteremo tra poco dalle parole del presidente di Federauto, ritiene di dover attendere più tempo del previsto per aprire anche gli stabilimenti. E anche Ford fa sapere che la sospensione temporanea della produzione di veicoli e motori nella maggior parte dei suoi siti di produzione europei continuerà almeno fino al prossimo 4 maggio. E come vi abbiamo appena anticipato, ci occupiamo ora di concessionari perché lo abbiamo ribadito, lo hanno ribadito soprattutto i responsabili delle case costruttrici che si sono alternati ai nostri microfoni in queste settimane. In questo momento c'è bisogno di prestare particolare attenzione ai dealers, forse la categoria più colpita, visto il blocco e la chiusura totale dalle attuali restrizioni. E allora noi parliamo di questa difficile situazione in compagnia del nostro ospite che è Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che è l'associazione che raggruppa appunto i concessionari italiani. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, molti costruttori l'hanno ribadito nel corso delle interviste che abbiamo realizzato nelle scorse settimane, c'è da prestare in questo momento particolare attenzione ad una categoria che è quella dei dealers, dei concessionari, che sono in questo momento praticamente fermi, se escludiamo probabilmente le attività di officina o di assistenza, e che saranno poi il fulcro su cui si baserà la ripresa di questo settore. Qual è il panorama in questo momento dei concessionari italiani? Allora, premesso che siamo aperti non per le manutenzioni e riparazioni, ma solo per l'emergenza per quanto riguarda il post vendita, anche perché il cliente non può venire a fare manutenzione presso di noi se non per gravi motivi, quindi la manutenzione non è compresa. Ciò comporta praticamente avere più costi che ricavi, diciamo, perché è più un servizio che dobbiamo dare. Pensi se dovesse fermare un medico piuttosto che un'ambulanza, piuttosto che qualcuno che deve andare in ospedale. Ecco, questo è il servizio che stiamo dando. Ma a parte questo, il nostro comparto è purtroppo caratterizzato da una cosa particolare. Abbiamo grandissimi costi fissi, abbiamo un break even altissimo e quindi basta uno scossar di vento di poche macchine, autovetture in più e meno immatricolate che naturalmente il nostro conto economico ne ne subisce gravi conseguenze. Questo è quello che può accadere in un periodo normale. Pensi che un 10% di scostamento del mercato in meno può portare già praticamente gran parte delle concessionarie in un'area della perdita. Se pensiamo invece a quello, allo tsunami che sta accadendo in questo momento, lei capisce che la situazione è molto più grave, perché oltre all'aspetto economico, ovvero delle perdite che stiamo subendo in questo momento, c'è anche un aspetto finanziario, ovvero i nostri costi sono praticamente uguali a prima delle, o molto simili a prima della chiusura, e i ricavi invece sono pari a zero. Quindi automaticamente dobbiamo anche sopperire dal punto di vista del cash flow le spese e coprire le spese col denaro. Quindi la situazione dei concessionari è veramente grave, e giustamente le case automobilistiche cercano di preservarci, anche perché quando dovremo riaprire, per forza bisogna che noi siamo vivi, perché ovviamente è poco utile, se no diventa davvero difficile. Avete stimato un calo dell'86% delle immatricolazioni di autovetture, del resto anche gli ultimi dati statistici sul mese di marzo confermano sostanzialmente questa vostra previsione, ma cosa sta succedendo in Europa? Ce lo dice l'ACEA in questa scheda. Quanto costa lo stop da coronavirus al settore automotive? Il conto da pagare arriva da una stima di ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori, che sulla base di media di 16 giorni di fermo della produzione a livello europeo ha stimato un calo di oltre 1.200.000 unità nella produzione di autovetture. A questo si unisce in maniera preoccupante il rischio per il lavoro di circa 14 milioni di europei, che direttamente o nell'indotto operano per il comparto. E il conto è destinato a crescere. Secondo il presidente di ACEA, le perdite aumenteranno se gli arresti di produzione continueranno o se saranno fermati altri stabilimenti. Preoccupanti anche i dati italiani. Sono attualmente fermi 69.382 lavoratori e lo stop è costato già 78.434 veicoli. La Germania ha invece fermato 568.518 dipendenti, perdendo 359.287 vetture. La Francia è a quota 90.000 dipendenti e 113.200 mezzi. E rientriamo in studio, abbiamo visto cosa succede in Europa, qual è il conto da pagare che arriva al sistema con i milioni e 200.000 unità della produzione di autovetture che sono stimate in meno rispetto alla produzione generale. Abbiamo visto che l'86% dell'immatricolato in Italia non ci sarà. Quali sono le vostre richieste alle istituzioni, al governo? E soprattutto il provvedimento sulla liquidità di inizio settimana, i 400 miliardi messi sul tavolo dal governo per tutte le imprese, ovviamente non solo quelle del settore, possono soddisfare queste richieste? Allora, certamente le richieste di liquidità, e quindi quello che sta mettendo in campo il governo, che è ben oltre quello che qualsiasi Presidente del Consiglio si poteva aspettare fino a qualche mese fa, sono certamente utili e ci aiuteranno per riaprire, ma il problema è la riapertura. Alla riapertura cosa faremo? Cioè, chi potrà pensare a un bene durevole quando tutta l'economia italiana si è fermata? Quindi se non diamo una spinta a questo settore, che non dobbiamo dimenticare, già in gennaio e febbraio non avevamo il coronavirus, era già meno 7% rispetto all'anno precedente, quindi era già un settore in difficoltà, un settore che nonostante i bonus che c'erano per l'immatricolato sulle macchine poco inquinanti non aveva dato un incremento delle vendite, anzi era già in crisi. Quindi se non diamo una scossa al mercato, noi probabilmente quest'anno, anche nella seconda parte dell'anno, avremo un grosso calo, perché abbiamo una grossa crisi economica. Mezza Italia si è fermata, Mezza Italia non guadagna, Mezza Italia non ha soldi, quindi dobbiamo chiedere qualche cosa di particolare allo Stato. Quindi qualcosa di specifico per la filiera dell'automotive? Esatto. Noi chiediamo naturalmente un intervento, e lo studiano loro come meglio fare, per rinnovare tutto il parco delle autovetture, dei veicoli commerciali, dei veicoli industriali, degli autobus, perché è particolarmente obsoleto. Date una spinta, date un incentivo, fate qualche cosa per questo. E l'altro aspetto è Parliamo di Europa, stiamo chiedendo dei soldi all'Europa, noi siamo europei, dobbiamo fare tutto in Europa, ma allora cosa c'è di meglio che adeguare la fiscalità dell'auto in Italia alla fiscalità europea? Pensi che solo in Italia non è detraibile l'IVA per intero su tutto il popolo delle partite IVA, perché in tutto il resto d'Europa è detraibile al 100%. Noi ci possiamo detrarre le autovetture aziendali o delle partite IVA possono detrarsi massimo 3.600 euro, dalle altre parti in Germania addirittura illimitato, cioè compro la macchina quindi me la posso ammortizzare quanto voglio, in altri paesi fino a 50.000 euro del costo della macchina, noi 3.600 euro, ma noi non ci possiamo detrarre il costo della manutenzione, dell'assicurazione, del carburante se non in forma percentuale, il resto d'Europa è tutto. Certo. Quindi già questo darebbe un grosso incentivo, quantomeno alle partite IVA, a cambiare l'autovettura. Cambiare l'autovettura delle partite IVA significa fare in modo che ci sia dell'usato fresco, perché questi solitamente cambiano ogni 30-32 mesi, e significa avere usato fresco, significa avere usato per quel privato che ha un euro 0, 1, 2, 3, che naturalmente non si può permettere una macchina nuova, perché chi ha una capacità di spesa molto inferiore, per consentirebbe a questo di poter avere una macchina più sicura, meno inquinante e soprattutto quindi svecchiare il parco circolante. Certo. Bene, ringraziamo allora Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, per queste informazioni e soprattutto per le proposte che ovviamente seguiremo con attenzione nella loro evoluzione. Termina qui la prima parte di Strade e Motori. Ci risentiamo tra pochi minuti con la seconda parte, con un ospite d'eccezione, il presidente di Mercedes Italia, con cui parleremo appunto di quello che sta succedendo nella casa tedesca. A fra poco. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questo spazio a Mercedes per fare un po' il punto della situazione in generale sul mercato, ma anche sulle tante iniziative che la casa tedesca sta portando avanti in queste ultime settimane per far fronte all'emergenza, e lo facciamo in compagnia del presidente di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera Massimo. Un piacere mio. Allora, tante le iniziative che Mercedes sta portando avanti a livello europeo, anche a livello italiano, però partiamo invece da un dato che è quello del mercato, dell'andamento del mercato. Proprio qualche giorno fa l'URAE, l'associazione che rappresenta i costruttori esteri, ha tenuto una conferenza stampa, ovviamente virtuale, online, in cui ha dato un po' di numeri e di cifre su questa crisi profonda, ovviamente, anche del settore dell'automotive, anche con degli scenari futuri legati soprattutto al tempo di chiusura del lockdown per gli esercizi. Qual è la vostra idea appunto su quello che succederà in queste prossime settimane e come Mercedes si sta preparando e sta affrontando questa situazione? Innanzitutto siamo abbastanza allineati con i numeri con UNRAE. Pensiamo che torniamo all'anno come 2011, il mercato è sceso da 2 milioni piuttosto verso 1,3 milioni delle unità, potrebbe essere anche un po' di peggio questo anno, dipende un po' la riapertura, come ripartiamo, quando, come, eccetera, eccetera. Quindi una situazione piuttosto difficile per l'industria, che è sicuramente importante per l'Italia, non solo per la nostra azienda, che siamo al mercato con il smart numero 5 nel mondo, ma veramente per l'Italia ci sono tanti posti di lavoro, non solo i concessionari, non solo Fiat, non solo le aziende di distribuzione, se no ci sono tanti fornitori italiani che lavorano con noi da tanti anni, tanta eccellenza, quindi veramente cruciale per l'Italia. Noi come Mercedes-Benz Italia ovviamente da primi giorni siamo in stretto contatto con i nostri concessionari aiutando con loro situazione di cash flow, ma innanzitutto il cliente, la nostra importanza va verso soddisfare le emergenze, innanzitutto tutto quello che sono riparazioni delle macchine nella distribuzione, i van, i veicoli industriali, ma anche le vetture. Ecco, a proposito proprio di questo, voi state ovviamente garantendo l'assistenza per l'emergenza, in primis proprio ai veicoli commerciali, oltre che a quelli industriali di cui si occupa ovviamente Mercedes Trucks. Sì, sì, garantiamo, c'è il servizio 24 ore, abbiamo solo le vetture, abbiamo 200 posti fra dei concessionari delle vendite, diciamo anche officine autorizzate, quindi una rete veramente importante, quindi il somministro dei ricambi è garantito, quindi ci siamo. La parte commerciale ovviamente oggi è molto ridotta, siamo veramente lieti di avere un sito online, il nostro online store, dove la gente può fare l'acquisto delle macchine online. Forse non è il momento dove tutti pensiamo a comprare una macchina, ma c'è anche tanta gente che sta già pensando un po' a ripartenza. Questa parte importante, senza essere troppo commerciale, però dire: dobbiamo ripartire, dobbiamo pensare avanti, prepararci anche la ripartenza, non solo come Europa, come Italia, anche nelle aziende, perché è importante quella parte economica, sempre mettendo i nostri dipendenti, i nostri clienti in sicurezza. Ovviamente, e non è un caso se infatti anche in Italia ormai da diversi giorni il dibattito sia proprio appunto legato alla seconda fase, quella della ripartenza, in cui sarà necessario rimettere in moto, e nel nostro caso non è una metafora, appunto la macchina. Veniamo invece alle iniziative che Mercedes sta portando avanti, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa e nel mondo. Ce ne sono alcune davvero interessanti. Per esempio, a Stoccarda è stata completamente riconvertita la produzione delle stampanti 3D per realizzare strumenti medicali. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, penso che non è proprio territorio solo di Mercedes, tante aziende a livello mondiale hanno mostrato la loro flessibilità a aiutare questa situazione. Io penso che ben ricevuto dai dipendenti, ben ricevuto dai nostri clienti, vedere che stiamo utilizzando gli stampanti 3D per gli strumenti medici è interessante. Mi sembra anche che normalmente siamo concorrenti nella Formula 1, il nostro Mercedes-Benz Formula 1 AMG Team, adesso con 7 team hanno creato un'iniziativa, stanno facendo dei respiratori per l'utilizzo medico, quindi si vede anche tanta solidarietà. Questo mi fa pensare anche molto bene. Io mi auguro, come sempre europeo, che l'Europa vincerà anche questa battaglia, che andiamo avanti veramente insieme con tanto appoggio mutuo. Forse domani siamo concorrenza, però sai che oggi già anche con la concorrenza stiamo sviluppando i temi come autonomous driving, eccetera, eccetera. Quindi questa è una parte della crescita anche nostra come aziende, come si dice bene, corporate citizen, essere una parte integrale della società. Ecco, lei ha appena citato un tema, quello della guida autonoma, che era un tema abbastanza centrale prima dello scoppio dell'epidemia, sull'evoluzione, sul futuro dell'automotive. Un altro tema centrale era quello della elettrificazione e della sostenibilità, che fino a poche settimane prima dello scoppio del coronavirus sembrava dover caratterizzare tutto questo 2020, anche a causa o grazie, a secondo dei punti di vista, delle imposizioni dell'Europa. Secondo lei questa transizione verso l'elettrico sarà rallentata da questa situazione, o tutto procederà come lo schema che si era prefigurato l'Europa qualche mese prima del coronavirus? Non si rallenterà assolutamente niente, perché veramente non solo che abbiamo da parte dell'Europa limiti delle emissioni per quest'anno, per il prossimo anno, che dobbiamo aggiungere, che sono veramente molto molto forti, quindi abbiamo questa limitazione, diciamo, dalla parte governamentale, ma anche c'è un desiderio dei clienti. Io penso che questa crisi, questa pandemia ci ha fatto ripensare tante cose e la sostenibilità diventa ancora più importante. Quindi noi come aziende siamo con il focus sulle macchine, non solo elettriche e ibride, ma anche, diciamo, possiamo dirlo, con i diesel assolutamente puliti, che è oggi un fatto. Quindi pensando più concreto in Italia, dove abbiamo parco circolante più vecchio dell'Europa, sarà una combinazione in tutti questi mezzi che ho nominato adesso, e fare un piccolo Marshall Plan, non solo per diciamo aiutare l'industria nostra, sino anche per fare l'Italia un po' più pulita, più sicura. Questo è importante. Certo. Bene, e allora noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Radek Jelinek, presidente di Mercedes-Benz, con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione in Italia e in Europa del settore. Salutiamo anche tutti i nostri radioascoltatori. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.